Quest'anno i dati riportati dal COA, che è il centro operativo AIDS, riportano 1888 casi di nuove infezioni, persone che hanno fatto per la prima volta il test. Ricordiamo che i dati sono relativi all'anno 2022. Di questi 1888 casi è importante segnalare che viene calcolato un 6,% di diagnosi che saranno in ritardo. Questo porterebbe le diagnosi del 2022 a 2011 casi. Sicuramente rispetto al pre-Covid sono in diminuzione, perché se dovessimo fare un riferimento al 2019 i casi sono in diminuzione, ma rispetto invece al post-Covid, quindi dal 2020 ad oggi, eravamo a 2020 1300 casi, nel 2021 1770 casi, e oggi diagnosticati 1888, se calcoliamo che il 6% di ritardo, siamo a 2011 casi. Di HIV non se ne parla, le persone non pensano appunto di aver corso un rischio e quindi non arrivano a fare un test, quando l'84% delle diagnosi di queste nuove infezioni sono riferite a rapporti sessuali. È importante sottolineare che l'età media è over 50, che il 43% di questo 84% è riferito a eterosessuali maschi e femmine, e il 41% è riferito a MSM, ovvero maschi che fanno sesso con maschi. Ma il dato, sicuramente siamo nella media, siamo sotto la media per abitante, siamo al 3,2% per 100.000 abitanti rispetto all'Europa, ma per noi il dato preoccupante come community dell'HIV sono le diagnosi tardive, che superano il 60%, e questo porta al fatto che le persone che arrivano a una diagnosi tardiva è perché noi pensiamo, ragioniamo su questo, sul fatto che sicuramente non pensano di aver corso un rischio e quindi non pensano di fare un test, quando sappiamo che una diagnosi immediata comunque comporterebbe in primis una presa in carico immediata e quindi l'assunzione della terapia e ottenere poi il risultato del virus non rilevabile uguale U. Ma queste diagnosi tardive arrivano perché la persona, appunto, come ho detto, non pensa di aver corso un rischio e quindi non va a fare un test, e quando inizia ad avere già, posso dire, dei sintomi legati a infezioni opportunistiche, quindi già in una fase di AIDS, anche quando viene poi sottoposta a controlli, anche il sistema sanitario, è spiacevole dirlo, ma non viene posto la domanda, vuole fare il test dell'HIV. Ricordiamo che ad oggi, fortunatamente, il test dell'HIV ha ancora bisogno del consenso della persona, però dovrebbe essere inserito in una diagnosi quando una persona ha comunque dei sintomi, ha delle infezioni in corso, perché questo aiuterebbe la persona a gestire a livello clinico, ma anche a livello emotivo, che è una cosa importante, il sapere di avere una diagnosi di HIV, e nel caso una diagnosi in AIDS, che comporta comunque un lavoro maggiore, un impegno, una sofferenza su tutto quanto dovrà affrontare. Riteniamo che queste diagnosi tardive arrivano anche in una fase ancora anche più grande, quindi abbiamo una fascia di 50-59 anni e una fascia oltre i 60 anni. Vogliamo chiedervi di sottolineare l'importanza del test, perché avere una diagnosi immediata, precoce, è importante, e noi vorremmo veramente rispettare l'obiettivo di UNAIDS si pone l'obiettivo nel 2030 di avere diagnosi HIV 0. Ad oggi questo risultato noi non l'abbiamo ancora, perché 2000 casi in un anno vuol dire 5 persone al giorno che si infettano, e vuol dire che manca comunicazione, manca sensibilizzazione, manca informazione, manca prevenzione.